andarci a giocare con una formica e poi chiudere gli occhi, non pensare più. Senti freddo anche tu, senti freddo anche tu. E nascoste nell'ombra della sera, poche stelle ed un brivido improvviso sulla tua pelle. Io per non sciupare tutto io e baciarti le labbra con un filo d'erba e scoprirti più bella, i capelli in su e mi piaci di più, e mi piaci di più. Forse sei l'amore. Ho bisogno di te, dammi un po' d'amore.